Elge mi dai, ti rispondo ancora che vuoi. Cambio l'attacco che siamo arrivati alla settima. Con M siamo come quella bibita energetica. Ci avessi i capelli, ci avrei una tipa che mi pettina. Se giro questa, lei che mi molesta. Fratello piscio in testa, a chi ci contesta. Queste tipi perfette sono la ricompensa. La bocca si muove da sola e va tipo Tesla. Sì, davvero, è veleno 7. Faccio ancora merda che ti sorprende. Mi dispiace, giuro, per chi non comprende. Sono cold temper, ma lascio queste tipe contente. Poi mi scatto a solo John Denver. Sto in alto dove c'è, non prende. Tu stai in basso, il tuo studio sembra un call center. È inutile che piace, il tuo disco non vende. Neanche se c'è leghi, un bel viaggio in Medio Oriente. Se faccio il rap è fatto bene, frate, cazzo mene. Di questo che parla dei miei concerti, poi manco viene. Sono un bracconiere, sbaglio rap un mese. Fai la rapotesi, la tua tipa si piega in avanti. Non è giapponese, giù con M, baby, sfudo gemme. Non vi rubo niente, vinco sempre tutte le risposte. Come il Google Center, siamo due leggende. Fumo come Snoop, bevo come Bender. Torno in auto blu, pure con le bende. Qualcuno qua c'ha precedenti. Certo che non li leggo, frate, quei commenti. Siamo egocentrici, almeno sentici. Se no prenditi male e poi genoflettito. Tu flow epici, sale quando non te lo aspetti. Tipo dei medicinali o degli anestetici. Tu puoi centellinare ma mi sa che smetti. Tipo come se entri male nelle tasche e pensi. Suonate pessimi. Alle feste apro le teste. Essere o non essere una bomba che è un Winchester. 100 copie di veste. Non ci fare richieste. Guardaci diventare bestie dopo una cena di pesce. Mamma mia, quasi 200 galleria. Di paranoia già la mia. Danza come una ballerina. Fresco come la valtellina. Corro più veloce, prendo la bandierina. Le tecniche che cerchi fai scouting. Fumo e faccio i cerchi dell'Audi. Drowning, Cali Smoky con Davi. Polonavi, da quando sti cazzo di album li coloravi. Mezzi Italia rap a trappa ma non sono bravi. Li lasciamo nella merda con i loro pari. Non proverò a ricopiarmi che fai solo danni. Morirò e farò i contatti con i miei ologrammi. Oh no, ci risiamo. Versi topsi, c'hanno troppi, belli ghiotti. Beringotti, nel capello nei cappotti. Mary Poppins, su carrello coi biscotti. Con i pizzoccheri vedi un picco degli ascolti. Divento serio, prendo tu molli in 2 secondi. 2000 euro, fai la fattura e poi ti scorti. Controlla i soldi, pensa al dinero, ti ricordi come vivevo. Spacco giusto un pochino, poi scappo giù col bottino. Da cazzo di condominio ti mangio, ti cuocio vivo. Non stacco, c'è il fuoco, continuo compatto. Lo sai che scrivo cattivo vampiro. Con il canino lo filo, vedi un puttino. Se attiro ti uccido perché ti miro. Non troppo in alto né in basso, tipo all'altezza del busto. Mi fa tu cazzo, sono pazzo, Frank Castle, Billy Russo. Quindi molto meglio se mi miri giusto. Occhio come ti comporti, siamo forti. Sono fuori tipo gli accordi, piano forti. Dico ne facciamo troppi, tipo Totti. Igor Protti, morti, rigor morti. Sempre se l'ho dato M, pensi rapper. Sempre se l'ho dato il verde, che ci serve. Con Jeff lo sai che siamo frecce. Da quando volevamo solo emergere, ora che dettiamo legge. Sto con una tipa da tachicardia. Penso ogni mattina che fatica questa vita mia. Non lo so la svolta quanto dura la mia mania. Spacco solo troppo, non c'è cura questa malattia. M può fottersene. Il mio fratello promette, frate, Vico Mortensen, Kevin Costner. Con un carne mozze, prova a fottermi, mi invita a nozze. Una merda.